avanti a testa alta, verso un futuro che incerto si sa. Sperare che domani arrivi presto, ma nel frattempo rimpiangere ieri. Chiedersi se ne sia valsa la pena, nell'incertezza dirsi una bugia. E vivere con poco e niente, non guardare neanche la TV. Pensavo di essere importante per te, almeno tu. Ma chi sono io per te? Soltanto un altro uomo inutile che poi butterai via. Quante volte che mi hai fatto male, non ho mai saputo neanche dirti addio. Se mi avessi dato un po' di amore, non avrei ripreso indietro quello mio. Avrei dovuto saperlo da prima, lo so, ma non ho capito che effetto ti fa sapere che non ci sarai.